I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Sebastiano Barisoni. All'indomani del voto greco si registrano reazioni in ordine sparso. In Italia molti politici hanno festeggiato, esultato, appoggiato Tsipras, forse nella speranza che riesca a fare quel lavoro sporco di ammorbidimento dell'austerità che non è riuscito in questi anni né a Italia né a Francia. Dimenticano però i politici di casa nostra che abbiamo prestato come paese 40 miliardi di euro alla Grecia, in proporzione più di quanto non abbia prestato la Germania, e che se la Grecia questi soldi non dovesse ridarli, peserà la decisione sui contribuenti italiani. In Europa invece le istituzioni fanno buon viso a cattivo gioco, ribadiscono che non è in discussione il rispetto dei patti presi con la Troica, ossia Banca Centrale Europea, Fondo Monetario Internazionale e Commissione Europea, ma sanno che alla fine bisognerà trattare con la Grecia e probabilmente si arriverà a un allungamento dei tempi di scadenza del rimborso del debito greco. Mastica amaro invece la Germania. Il risultato di queste elezioni è dovuto anche e soprattutto alla rigidità tedesca, con una ricetta che non solo ha portato il debito greco in 7 anni a schizzare dal 125 al 180% e ha distrutto un quarto della ricchezza del paese, portando la disoccupazione giovanile al 50%, ma soprattutto con una ricetta che ha trasformato un paese, la Grecia, che vale il 2% del PIL europeo e il 3% di tutto il debito europeo, in un paladino dell'anti-austerità, nell'eroina di una nuova forma di Europa. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Con Salvatore Padula. Mentre si guarda ancora come il nuovo governo di Atene condurrà la trattativa con Bruxelles per ottenere un allentamento del piano di austerity senza però perdere il sostegno di BCE e Fondo Monetario Internazionale, molti si interrogano sulle conseguenze che il voto in Grecia potrebbe avere su altri stati dell'Eurozona. Le concessioni che verranno fatte ad Atene si tradurranno in aperture anche verso questi paesi? Questa è un po' la domanda. C'è giustamente molta cautela. Intanto è arrivata a Roma la maxi delegazione di tecnici europei che dovrà far luce sui conti dell'Italia in vista dell'ulteriore verifica di marzo alla quale appunto i conti italiani saranno sottoposti. Del nuovo esame ha parlato oggi il ministro dell'economia Piercarlo Padoan per ricordare che l'Italia non infrange le regole della UE e che il deficit pubblico resta sotto il 3%. Secondo Padoan saremo promossi e non ci sarà bisogno di una nuova correzione dei conti. Il ministro sa che il problema italiano non è il deficit, cioè il disavanzo a fine anno, quanto piuttosto il debito pubblico, pari al 132% del PIL. Qui l'Europa aspetta risposte chiare, con le riforme strutturali da portare a termine, senza le quali non ci saranno i margini di flessibilità già promessi dall'Europa. Ma è innegabile, e il ministro lo dice, che una speranza arrivi anche dal quantitative easing, che insieme a un aumento dell'inflazione dovrebbe rimettere in moto l'economia. Insomma, tutti elementi per sperare che dal 2016 il rapporto debito-PIL possa davvero invertire il senso di marcia. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it.